Nel frattempo, la contessa d'Arpajon, la quale prima di pranzo mi aveva garantito che sua zia sarebbe stata felicissima di farmi visitare il suo castello in Normandia, mi stava dicendo, sopra la testa del principe d'Agrigento, che il luogo dove soprattutto avrebbe voluto ospitarmi era nella Côte d'Or, perché là, a Pont-le-Duc, lei si sentiva veramente a casa sua. Gli archivi del castello vi interesserebbero. Ci sono corrispondenze straordinariamente curiose fra tutte le persone più notevoli del XVII, XVIII e XIX secolo. Passo delle ore meravigliose, là mi tuffo nel passato, assicurò la contessa che era, come il signor di Germanzi era premurato di comunicarmi, fortissima in letteratura. Possiede tutti i manoscritti del signor di Bornier, disse riportando il discorso su Madame d'Edicure, la principessa ansiosa di mettere in luce le buone ragioni che poteva avere per frequentarla. «Se li deve essere sognati», replicò la duchessa. «Mi risulta che non l'abbia neppure conosciuto. La cosa più interessante è che gli autori delle lettere sono di varia nazionalità», continuò la contessa d'Arpajon, che imparentata con le principali case ducali e anche regnanti d'Europa, era ben contenta di poterlo rammentare. «Ma sì che l'ha conosciuto, Rian», disse il signor di Germant non senza intenzione. «Non vi ricordate quel pranzo dove Bornier era vostro vicino di tavola?» «Ma Bazin», lo interruppe la duchessa, «se volete dirmi che io, conosciuto Bornier, è naturale. È venuto anche parecchie volte a trovarmi, ma non ho mai avuto il coraggio di invitarlo perché sarei stata costretta ogni volta a far disinfettare con la formalina. Quanto a quel pranzo, me lo ricordo fin troppo bene. Non era affatto a casa di Zenaide, che non ha mai visto Bornier in vita sua, e probabilmente se le si parlasse della fille de Roland penserebbe che si tratti di qualche principessa Bonaparte che veniva scambiata per la fidanzata del figlio del re di Grecia. No, era l'ambasciata d'Austria. Il nostro impagabile Hoyos aveva pensato di farmi un favore piazzando sulla sedia accanto alla mia quell'ammorbante accademico. Mi sembrava d'avere per vicino uno squadrone di gendarmi. Sono stata costretta a tapparmi il naso, in un modo o nell'altro, per tutta la durata del pranzo. Mi sono arrischiata a respirare solo al Gruviera». Il signor di Germant, realizzato il suo scopo segreto, controllò furtivamente sulle facce dei commensali l'impressione prodotta dal racconto della moglie. «D'altronde, gli epistolari hanno per me un fascino particolare», continuò, malgrado l'interposizione del profilo del principe d'Agrigento, la signora forte in letteratura che custodiva nel suo castello delle lettere così curiose. «Avete notato che le lettere d'uno scrittore sono spesso superiori al resto della sua opera? Ecco, per dirne uno, come si chiama quello che ha scritto Salambò?» Avrei preferito non rispondere per non prolungare ulteriormente quel colloquio, ma capì che sarei stato scortese con il principe d'Agrigento, il quale, avendo finto di sapere perfettamente chi fosse l'autore di Salambò e di voler lasciare a me, per pura cortesia, il piacere di dirlo, si trovava in un crudele imbarazzo. «Flaubert», finì per buttar là, ma il cenno d'assenso che il principe fece con la testa attutì il suono della mia risposta, così che la mia interlocutrice non seppe mai con certezza se avessi detto Paulbert o Fulbert, nomi dei quali non rimase del tutto soddisfatta. «In ogni caso», riprese la contessa, «com'è curiosa la sua corrispondenza è superiore ai suoi libri. Del resto ne dà anche la spiegazione, perché da tutto ciò che dice sulla fatica che faceva scrivere un libro si vede che non era un vero scrittore, una persona dotata. A proposito di corrispondenze, io trovo mirabile quella di Gambetta», intervenne la duchessa di Germain per far vedere che non si peritava di provare interesse per un proletario, un radicale. Il signor di Breauté, al quale non sfuggì il senso di tanta audacia, si guardò intorno con occhio alticcio e insieme intenerito. Dopodiché si asciugò il monocolo. Dio mio, era maledettamente tediosa quella fille de Roland, disse il signor di Germain, tutto soddisfatto di sentirsi superiore a un'opera che lo aveva tanto annoiato, e forse anche per quel suave marimagno che sperimentiamo nel mezzo d'un buon pasto al ricordo di certe terribili serate. Però c'era qualche bel verso e del sentimento patriottico. Insinuai che non nutrivo la minima ammirazione per il signor di Bornier. «Ah, avete forse qualcosa da rimproverargli?» mi domandò con improvvisa curiosità il duca, il quale, se si parlava male di un uomo, credeva sempre che si trattasse di un risentimento personale e, per contro, dell'inizio di una passioncella se si parlava bene di una donna. «Vedo che ce l'avete con lui. Che cosa vi ha fatto? Raccontatecelo. Ma sì, deve esserci del marcio fra di voi dal momento che lo denigrate. È troppo lunga la fille de Roland, ma è abbastanza sentita». «Sentita è il termine giusto per un autore così odoroso», interloquì ironicamente Madame de Germain. «Se quel povero ragazzo ha avuto occasione di incontrarlo, è abbastanza comprensibile che l'abbia sullo stomaco». «Del resto», riprese il duca rivolgendosi alla principessa di Parma, «devo confessare a Madame che, lasciando pur perdere la fille de Roland, in letteratura e anche in musica io sono di gusti terribilmente antiquati. Non c'è vecchia cantilena che non mi piaccia. Forse non mi crederete, ma la sera, se mia moglie si mette al piano, mi capita di chiederle una vecchia aria di Hubert, di Boulier, perfino di Beethoven. Ecco che cosa mi entusiasma. In compenso con Wagner sonno istantaneo». «Avete torto», disse Madame de Germain. «Con certe sue lungaggini insopportabili, Wagner aveva comunque del genio. Lohengrin è un capolavoro. Persino nel Tristano, qua e là, salta fuori una pagina curiosa. E il coro delle filatrici nel Vascello Fantasma è un'autentica meraviglia». «Ma noi, vero Babal?» disse il signor di Germain rivolgendosi al signor di Broté. «Noi preferiamo...» «Sempre le più nobili persone si dan convegno in questo luogo ameno. È una delizia. E fra diavolo e il flauto magico e lo chalet e le nozze di Figaro e i diamanti della corona, quella sì che è musica. In letteratura è la stessa cosa. Ecco, adoro Balzac. Le bal de show, le Mohican de Paris. Ah, mio caro, se partite con la lancia in resta su Balzac, chissà quando finiremo. Tenetelo in serbo per una volta che ci sia anche Mémé. Lui è ancora peggio, lo sa a memoria». Irritato dall'interruzione della moglie, il duca la tenne per qualche istante sotto il fuoco di un silenzio minaccioso. Nel frattempo, Madame d'Arpajon aveva scambiato con la principessa di Parma certi discorsi sulla poesia, tragica e no, che non avevo sentiti con chiarezza, quando afferrai il seguente dalle labbra di Madame d'Arpajon. «Oh, Madame, a mille ragioni, le concedo che il mondo che ci fa vedere è brutto perché lui stesso non sa distinguere fra il brutto e il bello, o meglio, perché la sua insopportabile vanità gli fa credere che tutto ciò che lui dice sia bello. Convengo con vostra altezza che nel brano in questione ci sono delle cose ridicole, incomprensibili, delle cadute di gusto, che è difficile da capire, che a leggerlo si fa fatica come se fosse scritto in russo o in cinese, perché è chiaro che tutto tranne che francese, però quando ci si è sobbarcati a quella fatica la ricompensa non manca, c'è tanta immaginazione». Non avevo sentito l'inizio del discorsetto. Alla fine, non solo scoprì che il poeta incapace di distinguere il bello dal brutto era Victor Hugo, ma anche che la poesia difficile da capire, come se fosse scritta in russo o in cinese, era «Lorsque l'enfant paré, le cercle de famille applaudia grand cri», che risale al primo periodo del poeta ed è ancora, forse, più vicina a Madame de Soulier che al Victor Hugo della Légende des Siècles. Lungi dal trovare Madame d'Arpajon ridicola, io la vidi e fu la prima in quella tavolata così reale, così banale, così deludente per me. La vidi con gli occhi della mente, acconciata con la stessa cuffia di merletto da cui sfuggivano gli anelli rotondi dei lunghi boccoli di Madame de Remusat, di Madame de Saint-Hollaire, di tutte quelle eccellenti donne che nelle loro incantevoli lettere citano con tanta competenza e appropriatezza Sofocle, Schiller e l'Imitazione, ma le quali le prime poesie dei romantici ispiravano lo stesso terrore e la stessa stanchezza inseparabili per mia nonna dagli ultimi versi di Stéphane Mallarmé. «Madame d'Arpajon ha una gran passione per la poesia», disse a Madame de Guermantes la principessa di Parma, impressionata dal tono ardente con cui il discorso era stato pronunciato. «Ma che, non ne capisce nulla», ribatté a bassa voce Madame de Guermantes, approfittando del fatto che Madame d'Arpajon, intenta a rispondere a un'obiezione del generale di Beautreil, era troppo concentrata sulle proprie parole per sentire quelle sussurrate dalla duchessa. «Si dà la letteratura da quando è abbandonata. Confesserò anzi a vostra altezza che sono io a portare tutto il peso della vicenda, perché è da me che viene a gemere ogni volta che Bazaine non è andato a trovarla, cioè quasi quotidianamente. In fondo non è colpa mia se lo annoia e non posso mica costringerlo ad andare da lei, anche se preferirei che le fosse un po' più fedele, perché la vedrei un po' meno. Ma lui si scoccia e non c'è da stupirsene. Non è cattiva, ma è noiosa a un grado che non si può nemmeno immaginare. Mi fa venire tutti i giorni un tale mal di testa che ogni volta sono costretta a prendere una compressa di piramidone. E tutto questo perché Bazaine per un anno si è divertito a tradicchiarmi con lei e avere poi, come se non bastasse, un lacchè che spasima per una puttanella e mette il muso se non chiedo a quella brava giovane di lasciare un istante il suo fruttuoso marciapiede per venire a prendere il tè con me. Ah, la vita è una gran scocciatura», concluse languidamente la duchessa. Madame d'Arpajon annoiava il signor di Guermantes soprattutto perché egli aveva, da poco, un'altra amante, che appresi essere la marchesa di Surgy-le-Duc. In quel momento stava servendo in tavola proprio il lacchè privato del suo giorno di libertà e pensai che, ancora afflitto, lo facesse con molta agitazione, perché notai che, nel porgere i vassoi al signor di Châtellerault, si muoveva in modo così maldestro da far sì che il gomito del duca urtasse più di una volta contro il suo. Il giovane duca non se la prese affatto, anzi guardò il lacchè, che era arrossito, con un sorriso dei suoi occhi celesti. Quel buon umore mi parve da parte sua una prova di bontà. Ma l'insistenza del sorriso mi fece venire il sospetto che, al corrente della delusione del domestico, egli provasse invece una gioia maligna. «Ma, mia cara, non è mica una scoperta, sapete, quel che ci avete detto di Victor Hugo?» obiettò la duchessa Madame d'Arpajon, vedendo che costei si era girata dalla sua parte con aria inquieta. «Non illudetevi di lanciare un debuttante. Lo sanno tutti che ha talento. Quello che è detestabile è il Victor Hugo dell'ultimo periodo, la Légende des siècles e non so cos'altro, ho dimenticato i titoli. Ma le Feuilles d'automne, le Chante du Crépuscule sono spesso opera di un poeta, di un vero poeta. Persino nelle Contemplations», aggiunse la duchessa senza che nessuno dei suoi interlocutori, per ovvie ragioni, osasse contraddirla. «Ci sono ancora delle belle cose, ma confesso che oltre il Crépuscule preferisco non avventurarmi. E poi, nelle belle poesie di Victor Hugo, e ce ne sono, si trova spesso un'idea che può anche essere profonda. E con giusto sentimento, facendo scaturire la tristezza del pensiero da tutte le forze della sua intonazione, situandola al di là della sua voce e fissando nel vuoto uno sguardo incantevole e sognante, la duchessa disse lentamente: «Ecco, sentite, la douleur est un fruit. Dieu ne le fait pas croître. Sur la branche trop faible, encore pour le porter. Oppure questa. Le mort durant bien peu. Hélas, dans le cercueil, il tombant en poussière. Moins vite qu'en un cœur.